Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buongiorno a voi. Il 4 maggio si avvicina, ci stiamo preparando per affrontare la ripresa. Ci aspetta una fase in cui gli esperti ci dicono che dovremo imparare a convivere con il virus. Occorre quindi continuare a fare attenzione perché non possiamo abbassare la guardia. Ciascuno di noi deve proteggersi per tutelare, oltre che la propria salute, quella di chi gli sta accanto. E credo che l'emergenza ci abbia fatto proprio riscoprire questo senso di responsabilità anche nei confronti degli altri. Senza dimenticare che ci sono delle persone particolarmente fragili, a maggior rischio di sviluppare le forme più aggressive del Covid, che devono essere identificate e adeguatamente protette. Ma chi sono e quali sono le strategie da adottare per proteggerle? Bene, cioè, arriva la risposta da uno studio molto interessante del San Raffaele, con cui mi piace aprire la puntata di oggi. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Fabio Ciceri, che è vice direttore scientifico per la ricerca clinica e primario dell'unità di ematologia e trapianto di midollo del San Raffaele. Professore, buongiorno, grazie. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Professore, allora, il vostro studio nasce con l'obiettivo di capire di più della malattia e di soprattutto dei soggetti colpiti più gravemente. A che risultati siete arrivati? Sì, la ringrazio. È corretto. Fin dai primissimi giorni in cui abbiamo ci siamo presi carico dei pazienti con il coronavirus, abbiamo inteso fare una fotografia precisa di questi pazienti e a distanza di ormai 2 mesi abbiamo potuto identificare in modo chiaro quali sono i pazienti che sviluppano le forme più gravi, più aggressive e più severe di malattia. Sono gli anziani, sono i maschi e sono quei soggetti che, a prescindere dall'età, hanno una ipertensione arteriosa da lungo tempo trattata e malattie cardiovascolari, quindi una fragilità cardiovascolare in senso generale. Ecco, questi sono i pazienti che sono più a rischio di sviluppare forme severe ed eventualmente di mancare. Professor Ciceri, il vostro studio aveva anche l'obiettivo di capire di più della malattia. Che cosa avete capito di più del Covid che può aiutarci anche ad affrontare con maggiore sicurezza la ripresa? Ora, come sempre, quando si identificano i soggetti più a rischio all'interno di una malattia, questo si traduce in una fase successiva in una diagnosi precoce in questi soggetti e un'attenzione precoce che rivolgiamo loro. Ora, nella pratica, per la fase 2 noi vediamo importante poter catturare questi soggetti nel loro domicilio, a casa, con una diagnosi precoce, poterli affidare ad un monitoraggio stretto da parte della medicina generale e da parte di una connessione stretta tra la medicina generale e gli ambienti specialistici, grandi lab che hanno sviluppato in corso di questi 2 mesi una competenza specifica per questa forma di polmonite che davvero rappresenta elementi caratteristici e distintivi rispetto a tutte quelle polmoniti virali che noi abbiamo conosciuto in passato. Ecco, in che cosa si differenzia, professore? Da un punto sostanziale, ed è che la malattia nel polmone e poi anche in altri organi, stiamo imparando, sviluppa attraverso una reazione eccessiva del sistema immunitario nei confronti del virus, una reazione che sopravanza l'obiettivo dell'organismo di liberarsi del virus e che provoca nel terreno di battaglia la morte di buona parte dei soldati che combattono il virus e quindi andiamo incontro proprio a questa carenza di linfociti nel sangue periferico che è facilmente documentabile all'ingresso in ospedale e che rappresenta un marcatore molto fedele e attendibile di gravità di malattia. E poi un danno nel polmone, nel tessuto, quindi il campo di battaglia stesso diventa la sede del danno. Questo è molto caratteristico di questa malattia, a differenza di altre polmoniti come quella da influenza o da altri virus. Questa è veramente una malattia iperimmunitaria e questo si traduce in implicazioni pratiche terapeutiche che abbiamo imparato a sviluppare e che stiamo sviluppando in studi clinici con l'utilizzo di farmaci che spengono questa reazione immunologica, che la rallentano che permettono, in altre parole, di tagliare le gambe a questa eccessiva risposta immunologica, riportandola ad un livello più contenuto e più compatibile con una risoluzione clinica. Professor Ciceri, ho una richiesta di Rosa. Sono una nonna, tra poco mia figlia riprenderà a lavorare, potrò tenere i suoi bambini come ho sempre fatto? Professore, ci dia il suo punto di vista. La risposta è assolutamente no, no. Quello che dobbiamo evitare è mettere le persone anziane a contatto diretto con il mondo che riprende a circolare, che riprende potenzialmente a far circolare il virus. Questo è esattamente l'errore che non dobbiamo fare ed è forse la ragione per la quale la importanza della separatezza, della protezione di queste popolazioni a rischio, gli anziani, i cardiopatici, gli ipertesi, deve essere messa veramente al centro delle nostre politiche di governo della prossima fase. Certo, ma professore, torno alla domanda di Rosa. Se la persona anziana è sana, ha rispettato tutte le attenzioni, è in buona salute, ci sono anziani e anziani, così rispondiamo anche ad un altro commento. L'indicazione vale per tutti o secondo lei possiamo fare dei distinguo in base alla condizione di salute del nonno? No, non possiamo fare questo distinguo, perché la condizione immunitaria della persona anziana, anche se possiamo dire fit, cioè anche se in condizioni di fitness eccellente, è proprio la condizione immunitaria che è caratteristica della sua età che probabilmente condiziona il suo rischio. Quindi anche gli anziani che stanno bene sono purtroppo a rischio di sviluppare queste forme di polmonite. Quindi massima attenzione e massima protezione degli anziani di per sé. Grazie per questa sottolineatura, professor Ciceri. Quali indicazioni però può dare il vostro studio a noi tutti? Quali consigli, raccomandazioni possiamo anche trarre dai risultati che avete ottenuto in termini di prevenzione? Ha sottolineato la fragilità della persona anziana, della fragilità, diciamo, del sistema immunitario della persona anziana, ma quali altri suggerimenti, professore? Direi che il punto è proprio quello di non guardare più alla popolazione generale come all'inizio, come una popolazione che è esposta al rischio del virus nello stesso modo. Dobbiamo imparare a discernere, a guardare ad alcune categorie con particolare attenzione e soprattutto non solo di proteggerle, ma di permetterle di accedere molto precocemente a una valutazione clinica, a una presa in carico di un programma predefinito di sorveglianza e di monitoraggio. Dopo 1-2 giorni di febbre, questi pazienti devono essere riferiti a un centro che ha esperienza di questa malattia e che ha a disposizione i nuovi farmaci, i farmaci in sviluppo e i farmaci in studio clinico, che sono quelli che, se applicati in una fase precoce della polmonite, possono essere massimamente efficaci. Professor Ciceri, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Messaggio ricevuto, come si dice. Buona giornata. Grazie a voi, grazie a tutti. E allora noi in cammino, dai, dobbiamo prepararci ad affrontare la fase 2 con queste attenzioni, cercando di sfruttare a nostro vantaggio quello che sappiamo riguardo agli usi e ai costumi, diciamo così, di questo nemico invisibile con cui avremo a che fare ancora per un po' di tempo. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Manfredini, direttore della Clinica Medico Universitaria di Ferrara e autore di Un tempo per ogni cosa, PM Edizione. Buongiorno professore, grazie Buongiorno, per essere con noi. Grazie dell'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, professore, intanto voglio passarle qualche messaggio che sta arrivando dai nostri ascoltatori. Prima di parlare di cronobiologia, la scienza dei ritmi di cui lei è uno dei massimi esperti, e di interazione fra individuo e virus e ritmi circadiani, ma prima, professore, vorrei passarle una domanda di Bruna che ci chiama da Roma. Per malattie cardiovascolari si intendono anche insufficienza mitralica, professore? Beh, naturalmente oppure... le malattie cardiovascolari sono in senso lato, e non ci sono solo le ischemiche, quindi non c'è solo l'infarto o l'angina, ma ci sono anche lo scompenso cardiaco, per esempio, e anche le patologie delle valvole che eventualmente possono compromettere il compenso del cuore. Quindi nell'ambito ci mettiamo tutta questa famiglia. Tutto poi, quello che riguarda il nostro cuore. Certo, poi dipende da essere più o meno compensati, ecco, però diciamo che fa tutto parte della famiglia delle malattie cardiovascolari. Laura invece ci scrive: ho una tiroidite autoimmune, sono a rischio, lavoro in un supermercato e sono molto spaventata. Professor Manfredini. Diciamo che la tiroidite autoimmune è piuttosto frequente nelle donne, anzi sì. 9 contro 1, diciamo più o meno la statistica, donna-uomo, come tutte le malattie autoimmunitarie, è una delle comorbidità, però... gioca l'età, gioca, quindi se la persona è giovane è una malattia cronica, non è a particolare rischio. Siamo certo. Tutti un po' a rischio, io per primo che sono vecchio, però ecco, diciamo, non facciamo dell'allarmismo. Professore, a proposito di vecchi, c'è stata subito la polemica ai 60 anni, no, noi siamo del gruppo di Fiorello, ma a partire da che età ci si può considerare anziani? Beh, questo è un brutto discorso perché viene messo a 65 l'età geriatrica, per cui io che ne ho 62, 63 sono un diversamente giovane, me la sono inventata io, come tanti. Ecco, diciamo che ufficialmente per le statistiche, se uno deve fare un lavoro scientifico, fa l'over 65. Però in realtà adesso sappiamo che i 65 anni sono biologicamente non sono come una volta, per cui c'è tutta una classifica dei geriatri, per cui i pazienti o sono dei pediatri o sono dei geriatri ormai, quindi ecco, ormai non c'è più la via di mezzo. Professore, Patrizia ci scrive: mi piace tutta questa effervescenza di SMS che arrivano, professor Manfredini, ma c'è tempo per parlare di cronobiologia e dei ritmi circadiani. Sono un insegnante di 65 anni a settembre, i miei alunni faranno la quinta, sono una nonna anziana, ci scrive Patrizia. No, come dicevo prima, a 65 anni scolliniamo l'età perché il geriatra dica tu dipendi da me. Nella realtà sappiamo che l'età, un conto è l'età anagrafica, un conto è l'età biologica, e c'è tutta una serie di variabili, per cui ecco, statisticamente devo dire 65 anni, ahimè, diventiamo anziani, ma c'è tutto a che vedere. Uno può averne 60 ed avere delle comorbidità importanti ed essere considerato molto più a rischio di un settantenne che invece è sano. Quindi non è solo l'età anagrafica, ricordiamoci bene, c'è l'età biologica. Professore, nello studio del San Raffaele e durante la chiacchierata con il professor Ciceri abbiamo sottolineato un aspetto, e cioè che alcune persone rispondono in maniera diversa all'attacco del virus. Ci sono delle persone, sono state individuate, più fragili, quindi che devono essere intercettate precocemente per essere seguite nel modo adeguato. Tra l'interazione tra il virus e l'individuo possono entrare anche i ritmi circadiani? Possono avere una influenza? Assolutamente sì, purtroppo per fortuna per voi dipende, perché poi vi tocca sopportarmi, i ritmi circadiani c'entrano sempre con tutto, perché ogni essere vivente sulla Terra adatta la propria esistenza, ognuno di noi è uomo, animale, perché deve svolgere delle funzioni quotidiane, deve reagire all'ambiente e deve reagire anche con le altre forme di vita, che possono essere commensali, per esempio o mangio o sono mangiato, oppure sono invaso o sono un invasore, e questo per esempio è il rapporto con i virus o con i batteri. Professore, ci fermiamo qua un attimo per le informazioni sul traffico, mi scuso un attimo di ritardo, un minuto di ritardo, ritorniamo subito dopo insieme al professor Manfredini, a tra poco. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939, oppure visita il sito azienda.eolo.it. Obiettivo salute. Siamo tornati insieme, in linea con noi il professor Manfredini. Stiamo parlando di ritmi circadiani che possono mettere lo zampino, per così dire, nell'interazione tra individuo e virus, tra ospite e aggressore. Professor Manfredini. Assolutamente, perché il professor Ciceri poco fa ci ha parlato di caratteristiche individuali per quello che riguarda comunque pazienti, diciamo, di una gravità di un certo rilievo. Però anche per la massa, anche per chi non ha una patologia grave, il rapporto con il virus ci può essere. Quindi perché alcune persone magari lo hanno passato senza nessun problema, solo col tampone positivo, altri hanno avuto invece problemi? Perché esiste un rapporto, una regolazione fra ospite e aggressore anche a livello circadiano. Eccola qua. E quindi vuol dire che, come per ogni matrimonio, bisogna andare d'accordo in due, ovvero essere umano e virus, anche se non è che ci piaccia proprio questo matrimonio, professore. È vero, infatti cerchiamo di capire, come diceva Manzoni, perché questo matrimonio non sa da fare. Ma quando il professor Ciceri ci ha parlato poco fa di immunità innata, per esempio, anche quella ha un ritmo circadiano nel nostro corpo, e poi lui ci ha parlato per esempio di soldati e di campo di battaglia, quindi ha detto che abbiamo delle cellule specifiche che intervengono, e poi c'è, non so, il campo di battaglia e il polmone. Anche qui esistono tutta una serie di controlli circadiani dei nostri orologi biologici. Abbiamo un sacco di geni che si chiamano geni orologio, che per esempio, adesso faccio dei nomi difficili, reverb alfa e reverb beta, controllano il sistema immunitario, perché in alcune ore del giorno la funzione delle cellule nostre, dei nostri soldati, sono più o meno attive. Altri geni che si chiamano CRAI sono coinvolti nell'infiammazione. Un altro gene che si chiama BMOL1 regola la risposta antivirale specifica del polmone, cioè sul campo di battaglia, perché si è visto che se togliamo questo BMOL1 ad una cellula, la cellula è più esposta alle infezioni virali. Quindi pensate a una cosa anche molto interessante. Pensiamo al topolino, perché è l'animale d'esperimento. Se noi infettiamo il topolino quando lui inizia la sua fase di riposo, cioè diciamo quando sta per andare a letto, che per lui è la mattina, perché dobbiamo fare il contrario rispetto a noi, la replicazione del virus è 10 volte in quel povero topolino maggiore rispetto a se noi lo infettassimo con la punturina all'inizio della sua fase di attività, quando comincia a lavorare. Quindi vedete che il fatto di avere o no, beccarsi o no un virus, dipende anche dall'ora del giorno, assolutamente. Mi sembra di aver letto, professore, che i virus sono in grado di modificare la cellula dopo averla infettata. Ho capito bene, vero? È per questo che è anche così complicato con i virus. Proprio che per quando il virus entra ed infetta una cellula, il suo scopo è quello di modificare i processi biologici della cellula per favorire la propria replicazione e la massima diffusione. Cioè sostanzialmente vorrebbe fare in modo che quella cellula che ha infettato diventasse una sua casetta comoda, come la vuole lui. E certo. Poi, ricordando tutti i geni orologici che abbiamo detto prima, con un meccanismo circadiano che coinvolge tutta la regolazione dell'organismo, se io sono capace di andare a agire su quelli lì, mi riprogrammo la cellula come voglio io, come fa comodo a me. E certo. Professor Manfredini, altri messaggi di richieste e di rassicurazioni. Laura ci scrive: abbiamo parlato di malattie cardiovascolari, se la bradicardia è un fattore di rischio. Mentre Andrea da Lido degli Estensi ci scrive che la mamma 82enne soffre di fibrillazione atriale, in terapia anticoagulante orale, se è a rischio, e se invece la terapia anticoagulante invece può aiutare. Professore, può darci una mano? Rapidamente, la bradicardia è un sintomo, non una malattia, vuol dire semplicemente bradus lento, che vado sotto 60 battiti al minuto. Quindi non è una patologia. Ricordiamo anche che gli atleti sono tutti bradicardici, e ricordiamo che meno battiti il nostro cuore fa, più si riposa. Quindi tranquillizziamo le persone che hanno la bradicardia. Saluto l'ascoltatore da Rio degli Estensi, perché chiaramente è della mia provincia, è il nostro mare, che ahimè non riusciamo a vedere. Mi diceva che la mamma è un over 80 anni e ha una fibrillazione atriale, che è una patologia cardiovascolare. Rientra nel rischio degli anziani con malattie cardiovascolari, poi è in terapia e quindi entra in una categoria a rischio come abbiamo detto prima, gli over 65 con malattie specie cardiovascolari sono da considerare con attenzione. La terza domanda, mi aiuti Nicoletta a ricordare, era per sapere se la terapia anticoagulante poteva aiutare. Sicuramente ogni malattia controllata può essere da un sì, la terapia anticoagulante, ricordiamo che esiste una terapia anticoagulante con dei farmaci orali, esiste la terapia anticoagulante per esempio con l'eparina. I pazienti che hanno una malattia da coronavirus hanno una, sembra che abbiano una trombosi maggiore, per cui il protocollo prevede che utilizzino l'eparina, proprio un protocollo di terapia, molto saggio da stabilire, per cui la terapia anticoagulante da una parte preserva da altre malattie, perché ricordiamoci, se uno ha le malattie cardiovascolari e ha il virus, non è che le altre malattie non vengono più, quindi uno deve fare la profilassi, per esempio, certo, per l'ictus o per quant'altro, e non dimenticarsi che alcune cose per il corona, cioè non dimentichiamo tutte le altre malattie al di là del corona, insomma. Che ci sono, nonostante ci sono il restano. Covid. Professore, come facciamo in sintesi a difenderci dal virus e aiutare anche il nostro sistema immunitario? Perché questo è il problema. Dunque, lo stress non aiuta il sistema immunitario, perché tutti voi avete presente che quando siete, qualcuno di voi, quando anch'io, quando è particolarmente stressato, magari gli viene la febbre del labbro, che è un herpes, quindi è un virus, quindi vuol dire che se siamo stressati il sistema immunitario va un pochino giù e il virus ha un pochino più di vantaggio. Lo stress adesso c'è, perché è un momento stressante. Uno dei meccanismi di protezione più importanti per il sistema immunitario è il sonno, quindi perdere sonno è assolutamente deleterio, non tanto per, non solo come abbiamo detto in altre puntate, per il metabolismo e quant'altro, ma proprio perché protegge il sistema immunitario. Quindi direi che un sistema immunitario forte è quando una persona mantiene i ritmi circadiani sincronizzati. Questo è fondamentale, quindi dobbiamo mantenere il passo. Professore, negli ultimi 2 minuti di trasmissione ci aiuta con i suoi consigli a sapere come possiamo mantenere un ritmo circadiano più robusto e una buona risposta immunitaria? Lei ha citato il sonno. Allora, la sì, cerchiamo di fare stress, una specie di decalogo, perché insomma, se uno non dà dai i punti, non è nessuno. Allora, orari costanti, l'organismo ha bisogno di orari costanti, quindi a letto fra le 23 e le 24 e dormire quel numero di ore sufficienti che abbiamo già detto in altre puntate, abbiamo dato anche i numeri nella bufala, insomma, mantenere il fabbisogno di sonno, mantenere gli orari costanti anche per mangiare. Quindi una finestra di 12 ore al massimo fra la colazione e la cena. Durante la notte, quando si dorme, non si mangia nulla. Quindi, non lo so, colazione alle 7 alle 8, cena alle 7 alle 8. Ok? Una bella finestra ristretta. Poi, prima di prendere sonno, magari un 30 minuti, un'oretta, fare un po' di attività rilassanti, leggere un libro, musica. Meglio non guardare la TV, non guardiamo i notiziari con i morti, uno potrebbe avere i sogni vividi, insomma, e niente smartphone, computer e tablet. Esatto, l'abbiamo detto altre volte. La camera da letto non ci mettiamo le cose di lavoro, che se uno si sveglia si mette al computer, e teniamola fresca. Sì. L'organismo di notte si deve raffreddare per dormire, quindi meglio avere una coperta, piuttosto la finestra e una coperta, che non sbuffare di caldo. Se capita che uno si sveglia la notte, perché può succedere, specie in questo periodo, non guardare l'orologio, Dio che ore sono, e non accendere il cervello. Se proprio uno si riapre una pagina di un libro, oppure si prende un block note se si scrive una cosa che gli è venuta in mente di fare. Punto. Ma ancora 2 suggerimenti mentre ci stanno sfumando, intanto che ringraziamo Peter Bescapè in regia, la parte tecnica, Anita Panizza in assistenza e Laura Vanossi in redazione. Professore, proprio mattina 2 indicazioni. Mattina prendere luce almeno 30 minuti, esercizio fisico almeno mezz'ora al giorno, meglio di pomeriggio, passare tempo in compagnia, non isolarsi socialmente e tenere un ritmo anche della settimana, perché non so, lavoro nei giorni del weekend, nel non weekend, il weekend lo tengo libero anche se sono a casa. Il martedì mangio la pizza, il mercoledì gioco. Grazie, un abbraccio al professor Manfredini, ci sentiamo domani, buona giornata.